Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Come porti i capelli bella bionda, tu li scusi, porti alla bella Mariana. Guardi, di solito io i capelli me li fa, dipende molto anche dal modo di, comunque me li tiro tutti indietro, poi con una spilla me la punto sul cervello, qui li raccolgo e poi me li faccio tutto sul di fianco. Lunghi, corti, rasati, ordinati, un po' scarruffati. Buongiorno da Nicoletta, come portate o come vi piacerebbe portare i capelli? Che posto occupa nei vostri pensieri la chioma? Io mi sposto da un'estremità all'altra per chiedervi di dare un'occhiata da vicino alle vostre unghie. Hanno un aspetto forte, sano? Oppure notate sporgenze, zone di colore o forme insolita? Oggi in linea con noi è tornato a trovarci il professor Giuseppe Monfrecola, ordinario di dermatologia all'Università Federico II di Napoli. Professor Monfrecola, buongiorno e bentornato. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Professore, unghie e capelli sono, per così dire, cugini. Forse per questa ragione hanno molti punti in comune. La prima l'abbiamo anticipato riguardo alla loro collocazione, all'estremità. La seconda è che nonostante le dedichiamo molte attenzione e spendiamo per loro parecchi soldi, sono tra le parti meno sensibili del nostro corpo, perché non sono vitali? Ma non sono vitali perché sono formate da cellule oramai, diciamo, virgolette, morte, perché la pelle, sapete bene, va incontro a un processo per cui le cellule vitali vanno verso l'esterno. Unghie e capelli fanno parte della pelle, sono gli annessi cutanei, tra gli annessi cutanei, e quindi nella loro formazione perdono le cellule, perdono la loro capacità di essere vitali per diventare in questo caso delle lamine, delle piccole lamelle che attaccate le une alle altre danno luogo alle due strutture, i capelli e le unghie. Che sono fatte appunto di materiale che contiene della cheratina, che però è diversa dalla cheratina della pelle. La cheratina della pelle è molle, la cheratina dei unghie e capelli è una cheratina più dura, una proteina un po' più dura, e quindi ci dà la consistenza di questi due piccoli accessori. Molti di voi ci hanno già scritto su Facebook riguardo ai capelli. Nicola mi scrive subito: averceli. Silvia dice che li porta sul davanti, sul di dietro e sul di fianco, mentre sogna lunghi e ricci, tanto ricci, ogni riccio un capriccio. Questi sono alcuni dei messaggi che ci avete lasciato su Facebook. Naturalmente potete anche seguirci su Twitter. Ma professor Monfrecola, molto spesso quando siamo un po' stanchini, in riserva, notiamo che le unghie e i nostri capelli stanno in crisi, diventano fragili, si spezzano. Questo ha un po' alimentato la credenza che l'aspetto di questi annessi cutanei rifletta un po' la salute generale dell'organismo. È vero? È vero, non è un'impressione, è la realtà. Se pensiamo di che cosa sono fatte queste strutture, sono delle cellule che sono tra le popolazioni cellulari del nostro corpo a più rapida proliferazione, quindi sono attivissime, stanno sempre lì a riprodursi di continuo, è come un motore che viaggia sempre a un numero di giri particolarmente elevato e che naturalmente a un certo punto può risentire di qualsiasi cosa possa creare un piccolo intralcio al proprio funzionamento. Quindi capelli e unghie risentono moltissimo di tutto ciò che accade nel nostro organismo. Pertanto, non so, se parliamo dei capelli, episodi febbrili, purtroppo persone ammalate di tumore, malattie croniche, malattie ormonali come ipertiroidismo, ipotiroidismo, situazioni che cambiano perché, non so, la donna ha partorito, c'è un'anemia, una dieta con un rapido calo ponderale, insomma tutto ciò che turba in qualche maniera l'equilibrio del nostro organismo può essere risentito dai capelli, che possono cadere. Non, ci sono anche dei farmaci, naturalmente, perché noi assumiamo dei farmaci per Ci sono dei farmaci che possono provocare un indebolimento del capello, una caduta del capello? Sì, sicuramente. Tutti quanti sappiamo purtroppo dei citostatici, farmaci che vengono dati per frenare la proliferazione di cellule che noi non vogliamo, cioè delle cellule tumorali. Naturalmente questi farmaci, per quanto siano mirati, comunque finiscono ad influenzare anche il metabolismo e quindi la crescita. Ma a parte questi farmaci specifici, ce ne sono alcuni che magari farmaci da banco che noi assumiamo senza pensare che possono farci bene, ma possono in un qualche modo danneggiare i nostri capelli? Per esempio gli anticoagulanti, per fare un esempio, gli antitiroidei, in qualche maniera. La sospensione di alcuni, per esempio molte donne che sospendono la pillola sanno che in quel momento ci può essere una maggiore caduta dei capelli. Questi sono gli esempi più comuni che possono venirci. Poi ci sono naturalmente delle attribuzioni ai farmaci, di cose che ai farmaci non appartengono, perché se io ho un episodio febbrile e prendo un antibiotico potrei avere per questo episodio febbrile una maggiore caduta dei capelli e attribuirla così in maniera del tutto erronea al farmaco che sto prendendo. Invece la febbre. È la febbre elevata, certo, può essere. Professore, ma le unghie che ci danno informazioni come i capelli sul nostro stato di salute, quali sono i dettagli che interessano ad un dermatologo? È importante la forma, il colore o la loro consistenza? Oggi è il 15 del mese, ti devo tagliare le unghie. Ma come? Le abbiamo tagliate il mese scorso? Quelle del piede sinistro, quelle del piede destro sono 2 mesi che non le tagliamo. Poi fai attenzione, eh? No, mamma, lasciamo perdere, va, è un lavoro pericoloso, lo faccio fare in officina, sono più tranquillo. Allora, sicuramente Renato Pozzetto nel film Il ragazzo di campagna non soffriva di fragilità delle unghie, che invece è un disturbo molto diffuso, professor Monfrecola. Sì, è vero, è molto diffuso e può essere proprio di malattie della pelle, ma sì. Rimanendo invece nell'argomento di prima, cioè di che cosa il nostro organismo ci dice attraverso le unghie possono cambiare colore e consistenza perché appunto qualcosa non va al meglio. Faccio un esempio, per esempio delle unghie che prendono un aspetto, noi diciamo a vetrino d'orologio, diciamo sì, un po' bombate, con le dita che diventano come bacchettine di tamburo. Ebbene, possono essere spie di malattie broncopolmonari, di malattie cardiache, anche di malattie intestinali. Oppure unghie fragili, e in questo caso per esempio ancora una volta il metabolismo della tiroide potrebbe non funzionare. A volte delle striature possono darci un segnale di neuropatia periferica, cioè di problemi neurologici, e ancora una volta i farmaci, ancora una volta farmaci che possono influenzare dando dell'assottigliamento o addirittura dei cambi di colore particolarmente marcati. Qualche volta per esempio nelle zone dove la unghia cresce, diciamo la zona diciamo prossimale, e quindi quella che ci fa vedere quella sottile pellicina, la cuticola la chiamiamo noi, ebbene lì ci possono essere dei capillari molto tortuosi, molto evidenti, che noi vediamo in capillaroscopia, c'è proprio uno strumento, e questo può darci un'indicazione di alcune malattie addirittura autoimmuni. Insomma, il dermatologo in questo caso e il medico in generale diventano una sorta di piccolo Sherlock Holmes che dà segnali che possono sembrare molto marginali, possono arrivare a pensare a cose particolarmente complesse naturalmente. Poi voglio dire, tutti conosciamo malattie importanti per la cute, per esempio la psoriasi. Certo, che si vede anche nelle unghie. Questo è un dettaglio molto importante che vogliamo sottolineare, perché spesso viene trascurato, naturalmente non dai dermatologi, ma magari dalle persone. Professore, a che cosa dobbiamo fare attenzione? Pensi, il 50% dei pazienti con psoriasi ha associato questa situazione, che può essere associata a una psoriasi artropatica, cioè che può dar fastidi alle ossa. Però la psoriasi può andare da piccole macchiette color salmone a piccole depressioni puntiformi, fino ad arrivare a unghie molto ispessite per un accumulo di un materiale squamoso, un po' biancastro, e poi addirittura perdita della lamina con fenomeni infiammatori. Siamo in casi molto estremi. Certo, ci fermiamo prima, ma quello che vogliamo segnalare, professore, è che la psoriasi ungueale è una spia di... un coinvolgimento delle articolazioni di questa anche malattia. Delle articolazioni, e naturalmente questo bisogna considerare per la qualità della vita di queste persone, perché al di là del problema in sé, la qualità della vita di una persona con psoriasi delle unghie è fortemente deteriorata per il fatto che le unghie si vedono. Paolo ci chiama da Lecce, buongiorno. Intanto noi ci prepariamo per passare dall'Occidente all'Oriente. In linea con noi abbiamo già il dottor Maurizio Corradin. Dottor Corradin, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Paolo, è il turno suo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno, senta, io da più di un anno ho un'unica unghia, quella del pollice sinistro, che periodicamente si bucherella, più che altro si tambureggia, picchetta, come se fosse stata picchettata. Ho chiesto a specialisti, nessuno ha saputo darmi un'origine, ho altre indagini da fare. Posso avere da voi un parere? Allora, sentiamo l'Occidente e l'Oriente che cosa dicono, perché per la medicina cinese sono importanti anche le dita, le unghie, in base al dito a cui appartengono, vero professor, dottor Corradin? Certamente sì, ci sono ad esempio, fermandoci alle unghie delle mani, perché poi ovviamente potremmo discutere anche di quelle dei piedi, ma comunque fermandoci alle unghie delle mani, le unghie sono l'espressione della nostra energia più sottile, della nostra energia più yang, della nostra vitalità per alcuni aspetti. Poi in funzione del dito che è interessato, per noi acquista un significato diverso. Perché il pollice, ad esempio, per rispondere al nostro ascoltatore, ma intanto così raccontiamo, perché ha un gran lavoro il medico cinese, deve tenere sotto controllo 20 unghie? Certo, lo possiamo, siccome in corrispondenza delle unghie nascono i 12 meridiani principali della medicina cinese, possiamo per ogni dito, ad esempio di quelle della mano, dare un riflesso sia sul corpo sia sulla mente, ad esempio per quanto riguarda il pollice, questo in particolare rapporto con il polmone, quindi con la respirazione dal punto di vista fisico, dal punto di vista più mentale il rapporto con la nostra capacità di mettere ordine nella nostra vita, di avere una vita scandita da ritmi, la capacità di appunto dare ordine alla propria vita. Vorrei sentire dal professor Monfrecola, professore, la lettura invece di un dermatologo occidentale riguardo al problema dell'unghia del nostro ascoltatore, quindi di trasformazione proprio della superficie ungueale, qual è? Ecco, vede, quello che dice il nostro ascoltatore è un caso particolarmente difficile per la medicina, diciamo, occidentale, perché lui parla di una sola unghia, non di tutte quante, quindi perché solo quella fa questa picchiettatura? Ecco, in questo caso potremmo invocare qualche cosa di vagamente traumatico, anche microscopici traumi potrebbero influenzare la matrice, il pollice è il dito che noi più adoperiamo per la prensione, ed escludendo che il nostro ascoltatore, dato che ha adulto, si succhi il dito, penso di poterlo escludere, è evidente che qualche microtrauma per attività lavorativa, per atteggiamento, certo, altro. Ma professor Monfrecola, da quanto lei ci dice, noi possiamo arrivare a pensare che se il problema è riferito solamente a un'unghia, è un problema che possiamo pensare derivi da un trauma, mentre se il problema si presenta in tutte le unghie della mano o in alcune, magari c'è un problema di origine diversa, magari possono essere dei funghi? Questo può essere, ma i funghi potrebbero colpire un solo dito, ma non in quella maniera descritta dal nostro ascoltatore. Le micosi delle unghie provocano altre situazioni ben diverse da quella di una piccola picchiettatura. Ecco che quindi al nostro amico diciamo di stare tranquillo, se si succhia il dito, smettere di succhiarsi il dito e di stare tranquillo, ma di considerare che il pollice per la medicina cinese fa riferimento al polmone e anche al nostro desiderio di mettere ordine nella vita. Ma dottor Corradin, io parlerei anche dei capelli. Certo, i capelli in medicina cinese hanno almeno due grandi valenze. Il rene, in particolare c'è una relazione con il rene della medicina cinese e con la nostra vitalità. È un po' come i capelli di Sansone, quindi dimostrano la vitalità e la forza. E poi c'è un'altra grande relazione dei capelli che è con i pensieri e quindi con un'altra funzione che si chiama milza, perché i capelli come i pensieri emergono dalla testa, i capelli come i pensieri sono diversamente orientabili in funzione dello stato emozionale del momento. Quindi esistono almeno queste due grandi relazioni, nel primo caso quelli in relazione con la forza, con capelli più fragili, invece quando è una relazione psicosomatica con il secondo caso, con capelli più grassi e più untuosi. Dottor Corradin, la medicina cinese utilizza molto anche erbe, alimenti per riequilibrare anche le energie che possono, in quel flusso di energia che si può interrompere. Ci sono delle indicazioni dietetiche per capelli e per unghie? Ah, sicuramente sì, in modo particolare, prima una caratteristica a livello generale, cioè di non utilizzare sapori troppo forti, perché già il nostro testo classico nel capitolo 5 insomma sottolineava che i sapori forti nuociono alla forma, quindi nel caso del rene evitare i cibi troppo salati e nel caso quindi dei capelli, e nel caso delle unghie che hanno una relazione privilegiata con il fegato della medicina cinese non il fegato nostro. quindi evitare l'eccesso di cibi, di cibi acidi, poi fondamentalmente limitare quindi la quantità di sapori e poi grandi quantità come sempre di frutta e di verdura, perché questi sono, apportano quei sapori leggeri che sono essenziali per il, noi lo chiamiamo il ginga, comunque per la vitalità dei due organi da cui dipendono poi tutte queste funzioni. Quindi, professor Monfrecola, direi che siete abbastanza d'accordo tra Oriente e Occidente. Direi proprio di sì. Quali sono le vitamine e sali minerali che possono, se carenti, provocare un indebolimento di questi annessi cutanei? Guardi, noi sappiamo che per esempio stati anemici possono provocare caduta dei capelli, indebolimento sì. delle unghie, e quindi direi che innanzitutto il ferro. Ecco, qui ritorniamo sempre alle cose che si dicono e che spesso non si fanno. Insomma, noi abbiamo tutti i sistemi ben precisamente tarati per fare il loro lavoro. Sì. Bisogna dargliene la possibilità. Allora, al di là di dire quali sono, diciamo quali cibi naturali sono quelli essenziali. Ancora una volta, verdure e frutta che contengono fondamentalmente questo, ma naturalmente in questa nostra dieta siamo onnivori, dobbiamo aggiungere una certa quantità di proteine animali che possono venire dalla carne, dal pesce o da altre sostanze. Quindi direi che una corretta e varia alimentazione ci provvede, a meno che non abbiamo disturbi di assorbimento, certo. una quantità di sali minerali e vitamine sufficiente agli apporti per unghie e capelli. Dottor Corradin, grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Professor Monfrecola, lo stress può far cadere i capelli, mi chiedono molti ascoltatori? Guardi, noi abbiamo una serie di mediatori, neuromediatori, che arrivano con l'innervazione anche al capello. Quanto incida sì. questo realmente su una caduta di capelli, questo non è stato ancora ben valutato. Certamente sappiamo che forti situazioni di stress fisico possono senz'altro almeno coadiuvare una situazione di caduta di capelli. Tante le domande su capelli e unghie, abbiamo preparato una scheda sui nostri vero e falso, andiamo ad sentirla. Ogni giorno una persona perde in media 60-100 capelli. Vero o falso? Le unghie dei piedi crescono più velocemente delle unghie delle mani. Vero o falso? I capelli femminili hanno un diametro doppio rispetto a quelli maschili. Vero o falso? L'unghia che cresce più velocemente è quella del dito medio? Vero o falso? Professor Monfrecola, aggiungerei, è vero che i capelli sono apparentemente indistruttibili a parte la loro infiammabilità? Sembrerebbero non decomporsi neanche dopo la morte, resistono ai trattamenti chimici, insomma, sono indistruttibili? Iniziamo a rispondere ai nostri vero e falso, che sono delle domande curiose che si ritrovano spesso un po' come dei tormentoni su internet. Allora abbiamo cercato, le abbiamo raccolte, abbiamo pregato il professor Monfrecola di darci un po' una risposta. Professore. Allora, la prima domanda era: ogni giorno una persona perde in media 60-100 capelli, questo è vero? Ci può stare. È vero, senz'altro sì, abbiamo un ricambio, i capelli non sono sempre gli stessi, ricambiamo di continuo, sì. È evidente che se poi questa quota diventa eccessiva, allora dobbiamo cominciare a preoccuparci e cominciare a cercare di capire se stiamo diventando calvi oppure no. Le unghie dei piedi crescono più velocemente delle unghie delle mani? E questo è falso, perché quelle delle mani crescono di 3 mm al mese, più o meno, naturalmente, sì, certo. E invece i piedi 1 mm al mese, ma naturalmente vari fattori possono far variare questa crescita, ma quelle delle mani crescono più rapidamente di quelle dei piedi. E su questo l'unghia che cresce più velocemente sembra essere quella del dito medio, della mano che si usa naturalmente di più, vero o falso? È falso, queste sono. Mentre i capelli femminili rispetto a quelli maschili sono doppi o la metà di diametro? No, direi che non possiamo asserirlo con tale certezza, assolutamente, direi che siamo più sul falso che sul vero. Il problema qual è? Lo spessore del capello è legato alla genetica del soggetto, all'etnia, che quindi sembra un fatto genetico, all'età, a situazioni ormonali, a situazioni nutrizionali, quindi lo spessore del capello in genere è quello che madre natura ci ha consegnato indipendentemente dal sesso, poi nel tempo questo spessore può variare anche per situazioni non patologiche, semplicemente per un'evoluzione dell'individuo. Andiamo ad Alfio che ci chiama da Perugia, buongiorno Alfio. Buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere, ultimamente, gli ultimi 6-7 mesi, diciamo, i capelli diventano subito grassi. Volevo sapere se ci sono dei shampoo in particolare da usare, oppure l'alimentazione è sempre la stessa, oppure la vecchiaia si sta avvicinando. Ma come Alcio la vecchiaia? Quanti anni ha? 58. Professor Monfrecola, insomma, i capelli cambiano nel corso della vita e in alcuni casi possono diventare, ad esempio, come nel caso di Alfio, più grassi. E il dubbio anche di molti ascoltatori che mi stanno scrivendo via SMS al 349-238-6666 è quale prodotto usare, e è quello che ci chiede Alfio, ma soprattutto se anche ci sono dei se è vero che utilizzando dei prodotti magari non adatti al nostro tipo di capello possiamo provocare un cambiamento del capello e quindi di renderlo più secco o ancora più grasso. Professore. Sì, allora, il quesito è: quante volte devo lavare i capelli alla settimana? La risposta, quando sono sporchi. Quindi il problema non è che lavarli troppo può comportare dei problemi, a meno che non si facciano degli shampoo poco adatti. Direi che in questo momento la dermatocosmetologia dispone di prodotti assolutamente sicuri dal punto di vista della formulazione, quindi certamente atossici e certamente privi di ogni rischio per chi li adopera. Il problema vero è che i capelli sono grassi non per un fatto alimentare, ma perché geneticamente quella persona è portata ad avere maggiore secrezione sebacea. Adesso sto escludendo alcune patologie particolari, quindi parliamo di persone sane. Quindi lavare i capelli con degli shampoo che sono dedicati, si possono trovare in profumeria, si possono trovare al supermercato, si possono trovare meglio ancora in farmacia, sono degli shampoo dedicati che possono dare una detersione non esasperata e quindi asportare quella quota di grasso che in eccesso che viene prodotta. Non è che lavandoli di più diventeranno più grassi come si crede, ne portiamo via quello che normalmente viene prodotto giorno per giorno. E neanche cadono? E neanche cadono di più. Quando laviamo i capelli notiamo un certo numero di capelli nel lavandino, nella doccia, semplicemente perché sono capelli che già erano già in partenza. Esatto. E noi siamo in partenza per andare a sentire i mercati e poi il meteo. Vi ricordo il nostro Daily Lab, unghie, capelli, insomma, da un'estremità all'altra. A tra poco. Essere e benessere. Muito lentamente, ma inesorabilmente, estou estampando. Se vê delusão, meu papá sem sariguarde, sembra Angelo Branduardi. Dice, avrai preso da nono, era pelão. La mia testa non è scoglio. Professor Monfrecola, ascoltando Nemico Duventu di Fabrizio Casalino, la domanda sorge spontanea: che cosa c'è di nuovo per la caduta dei capelli? Dipende da di quale caduta stiamo parlando, perché ovviamente c'è caduta dei capelli e caduta dei capelli. Le più frequenti sono la cosiddetta alopecia androgenetica dell'uomo, quindi classica calvizie, se vogliamo, e naturalmente anche altre patologie che hanno una base autoimmune come la alopecia areata. Sono due vere e proprie malattie e quindi in questo caso c'è bisogno del consulto con un dermatologo che possa inquadrare bene il caso, vedere naturalmente di avere una certezza di diagnosi e in questo caso indirizzare correttamente il paziente. Naturalmente le terapie varieranno da caso a caso, come sempre accade in questo. Per l'alopecia androgenetica i rimedi sono quelli che sono ben noti al pubblico, che sono praticamente quelli di minoxidil per via topica, per via appunto per applicazione, oppure l'assunzione, e qui però c'è bisogno di una accurata anamnesi da parte del dermatologo, insomma un counseling molto accurato, non mai per piacere le autoprescrizioni, ecco questo vorrei dirlo con forza, per piacere. Molti dei problemi che si hanno da tutti i farmaci e tutte le terapie derivano dal fatto che ci si autoprescrive, non si fanno i controlli e quant'altro, quindi prodotti che possono essere usati in sicurezza se però c'è continua attenzione da parte del medico. Unghie e capelli sono state date agli uomini per fornirgli una costante occupazione. Alexei Tolstoi. E infatti ci tengono occupati. C'è chi si intrattiene arrotolandosi i capelli in ciocchi, che se li strappa, chi invece preferisce accanirsi con le unghie, chi invece apprezza, gusta di più le pellicine. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Tatiana Torti, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale presso il Dipartimento di Neuroscienze Cliniche della Casa di Cura Villa San Benedetto Menni, in provincia di Como. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Sì, è vero, ci tengono parecchio occupate sia le unghie che i capelli, ad alcuni naturalmente. Assolutamente sì, infatti si parla di due comportamenti diversi per oggetto, appunto i capelli o le unghie, ma comunque sono molto simili per le modalità con cui si effettuano. Nel caso dei capelli parliamo tecnicamente di tricotillomania e nel caso delle unghie di onicofagia, e sono entrambi due meccanismi che, se portati all'eccesso, intendiamo bene, possono causare comunque un grave disagio psicologico ma anche sociale, dato che Nicoletta, appunto, noi possiamo pensare che le unghie anche, e quindi le mani ma anche i capelli, sono in qualche modo la nostra carta d'identità, e quindi dicono in qualche modo chi siamo, no? Sì, chi anche siamo... perché innervosisce abbastanza vedere la persona che sta davanti a te, magari che sta parlando con te, mangiarsi nelle pause le mani oppure attorcigliarsi i capelli, insomma. Quindi, esatto, sarà un meccanismo per sciogliere le tensioni, scaricare le tensioni, ma chi le guarda magari può dare molto fastidio. Anche a chi le prova, perché pensiamo per esempio alle macchie alopeciche di chi si strappa i capelli, sì, o comunque alle ferite sempre aperte delle mani di chi si rosicchia unghie e pellicine, quindi è proprio un disagio vissuto anche a livello psicologico. In questi casi, sì, parliamo appunto di un vero e proprio disturbo che appartiene allo spettro ossessivo compulsivo, che sembra una parolona, in realtà adesso cerchiamo di capire di cosa si tratta. Il cuore di questi disagi consiste nel perdere il controllo degli impulsi, quindi sì, si organizzano dei veri e propri rituali, che sono appunto le compulsioni. Ma cosa accade in questi momenti? Ci possiamo immaginare il processo diviso in due fasi. Nella prima fase avviene un aumento di tensione, l'ansia, appunto, lo stress, e nella seconda fase si impara, diciamo così, ad alleviare l'ansia associando un gesto, quindi lo strappare, l'arrotolare o il rosicchiare. E questo meccanismo verrà ripetuto talmente tante volte che poi diventerà automatico, quindi compulsivo, purtroppo solo apparentemente tranquillizzante. Antonio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per il servizio quotidiano che mi date, che ci date. Ma com'è carino, grazie a lei Antonio che ce lo dice. Ascolti, mi dica. Niente, il mio problema, diciamo, è questo. Io in pratica sono un feroce mangiatore di unghie. Ah, un rosicchiatore. Ho 51 anni, sono nato mangiandomi le unghie e mangio tuttora le unghie e mi ritrovo perfettamente nella descrizione che ha fatto la dottoressa, perché questo disturbo, diciamo, mi crea dei problemi proprio anche a livello di relazione, di rapporti, certo, con le persone, perché quando me le guardo non le piacciono. Non mi piacciono, e obiettivamente a volte cerco sempre. Ha un'unghia preferita, Antonio? Ha un'unghia preferita? No, io ho tutte le unghie. Le piacciono? È un vero degustatore, con pellicine o senza pellicine? Ho preso le pellicine, tutto. Ma compreso. Tutto. Non mi faccio mancare niente. Dottoressa Torti. Ecco, appunto, buongiorno Antonio. Il fatto di venire naturale, come dicevamo prima, è un meccanismo proprio automatico, no? Quindi lei si è abituato proprio ad associare uno stato ormai quasi sempre presente con il rituale. Che cosa possiamo fare allora? In questi casi si consiglia di prendersi cura di una mano alla volta. E in realtà anche solo partendo proprio da un dito alla volta, forse quello, come diceva prima Nicoletta, il meno fastidioso, sì. E poi, esatto, passando poi da quello un pochino più fastidioso e via andando. Magari tutte, sì, le mani. Antonio, magari può iniziare dal pollice o dal mignolo, eh? Sì. Sicuramente. Antonio, faccia così, ci prova, poi mi scrive, mi regali il suo mignolo, lo coltivi, esatto, per essere benessere, lo lasci crescere e poi a poco facciamo anulare, medio, facciamo questo esperimento con Antonio. Sì, proviamo. E oltretutto volevo dire che anche mio figlio, che ha 15 anni, è sulla stessa strada. Bravo, padre. Allora a suo figlio gli facciamo, non so, il pollice, che così avete due dita diverse e ve le controllate reciprocamente. Quindi il consiglio, Antonio, però poi mi racconta, mi scrive su Facebook, il consiglio, dottoressa Torti, è di iniziare ad un dito alla volta. Esatto, si parla proprio di riduzione graduale e progressiva, quindi in questo senso iniziare da un dito alla volta. Poi chiaramente se il disturbo in realtà viene percepito come molto più fastidioso, sarebbe anche poi opportuno rivolgersi al professionista. Teniamo presente che ci sono proprio dei trattamenti anche farmacologici e poi psicoterapici un po' più strutturati. Professor Monfreccola, le sembra una buona idea? Sì, direi di sì, proprio così. Lei le unghie non se le mangia, vero? Mai mangiate? No, ma mi strappo i capelli alle volte. Dalla disperazione, dai problemi. A proposito di strappare i capelli o di attorcigliarseli, dottoressa Torti, possiamo dare un consiglio comportamentale anche in questo caso? Certo, anche in questo caso è possibile. Beh, facciamo subito un distinguo. Si può pensare per esempio allo strapparsi i capelli mentre si è da soli in casa, magari si sta studiando piuttosto che si sta preparando un lavoro importante, allora in quel caso c'è l'aspetto più automatico proprio, sembra quasi slegato dalla situazione. Invece quando si è in mezzo agli altri, come dicevi prima Nicoletta, davanti anche a delle persone, in quel caso vediamo che scatta un po' più di ansia sociale, quindi un vero e proprio stress. Sono due situazioni un po' diverse. In realtà si può imparare a riconoscere proprio la situazione che genera questo tipo di comportamento, imparando poi a sostituire questo atto con un comportamento più funzionale, chiamiamolo così, che a seconda delle circostanze può essere diverso. Che non vuol dire che uno dal capello passa all'unghia, si rosicchia le unghie, ma fa qualche cosa di sostitutivo che può essere... Esatto, se noi partiamo dal presupposto che questo è un disturbo comunque legato all'ansia, per esempio si può effettuare la respirazione diaframmatica, che è una respirazione lenta per ripristinare uno stato di maggior tranquillità, oppure se siamo seduti a casa possiamo annotarci su un post-it dei memento, no? Quindi ricordarci che c'è questa cosa che non si deve fare, alzarsi dal posto in cui si è, quindi spostarsi anche di luogo, sono tutte strategie. Rompere un po' il circolo vizioso. Esatto. Dottoressa Torti, io la ringrazio per essere stata con noi e la saluto e proveremo appunto con i suoi consigli. Un dito alla volta. Invece persone che non si mangiano le unghie, non si strappano i capelli, non se li attorcigliano in ciocche, ma li guardano in modo molto molto attento, perché unghie e capelli sono diventati sempre più importanti per risolvere i casi giudiziari. In linea con noi abbiamo la professoressa Cristina Cattaneo, professore di medicina legale all'Università degli Studi di Milano. Buongiorno professoressa. Buongiorno, buongiorno. Sono molto contenta di averla in linea con noi. Grazie, anch'io. Allora, quindi unghie e capelli? Unghie e capelli spesso trascurati da noi medici legali sono fondamentali perché ci dicono qualche cosa sia sulla vittima che sull'aggressore. Le unghie, per esempio, nell'ambito di una colluttazione vengono utilizzate, quindi sul cadavere ci possono nascondere delle tracce dell'aggressore, per esempio dei lembi di pelle dell'aggressore che la vittima è riuscita a strappare, a graffiare, ma ci dicono anche, per esempio, se la vittima è stata in ambienti con del terriccio particolare, se è grattato della terra, se è stata nascosta da qualche parte, se ci sono dei semi o delle foglie particolari o frammenti di foglie che possono ricondurci a determinati ambienti e aiutarci a ricostruire le dinamiche un po' dell'omicidio. I capelli invece ci raccontano moltissime cose ma sulla vittima. Nel caso di cadaveri non identificati, essendo tra i tessuti che sopravvivono di più insieme alle ossa, ci raccontano per esempio l'etnia, la razza, ci dicono, facciamo degli esami microscopici abbastanza dettagliati per capire anche il colore, se il capello è tinto, se non è tinto, di che colore era tinto, e poi ci raccontano la storia anche tossicologica e farmacologica, esatto, sì, per cui sono molto importanti per ricostruire un po' l'identikit della vittima. Quindi non vengono mai trascurati? Non dovrebbero essere mai trascurati. Esatto, sì. Grazie alla professoressa Cattaneo. Magda, dove state andando? Ben, porto i bambini al gabinetto. Allora io parlo al vento. Perché? Allora te lo ripeto per l'850esima volta. I bar e i bagni pubblici sono i distributori automatici della salmonellosi e del tifo, d'accordo? Allora, introduciamo l'argomento di oggi insieme al grazie al film di Carlo Verdone, Bianco, Rosso e Verdone. Parliamo di batteri, incontri ravvicinati, ma non sono solo i bagni pubblici che ci fanno incontrare questi batteri. Le occasioni sono diverse, ne parliamo insieme al professor Pregliasco, virologo del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università di Milano. Buongiorno professore, buongiorno, bentornato. Buongiorno, purtroppo i batteri sono una presenza costante nella nostra vita, nell'ambiente con cui abbiamo ovviamente ogni giorno a che fare. Senta professore, siamo partiti dai bagni pubblici, ma da uno studio di qualche anno fa, dell'anno scorso, condotto in Inghilterra, i ricercatori hanno riscontrato più germi sulla tastiera del computer che sulla tavoletta del water. Assolutamente sì, in oggetti d'uso comune, vuoi la tastiera magari di un internet point piuttosto che il telefono d'uso comune, la maniglia del tram, ma peggio ancora abbiamo visto valori di concentrazione elevatissimi, per esempio sui carrelli della spesa dei supermercati, si arriva ad avere presenze di contaminazione batterica piuttosto rilevante, per cui tutto questo ci deve far ricordare quelle che sono norme di buon senso, tra cui quella di lavarsi frequentemente le mani in modo adeguato, quindi non con gli aspetti magari una sciacquata rapidissima con acqua e via, ma con un grande uso di acqua e possibilmente soprattutto di sapone, perché è quello che è fondamentale, quindi è il buon senso delle nonne, perché le mani sono poi il veicolo intermedio di trasmissione di queste patologie e sono tante, 8-10 mila casi solo di salmonellosi all'anno in Italia. Mi scrive Matteo se l'influenza e il raffreddore si prendono anche dalle mani, mettendo le mani in bocca. È corretto perché è dimostrato che una quota rilevante delle infezioni arrivano sì per via diretta, cioè per le goccioline che noi ci respiriamo l'un l'altro e nel momento in cui c'è un paziente malato possono avere questa cosa, ma anche e soprattutto in particolare per quanto riguarda raffreddore e altre infezioni respiratorie per il passaggio intermedio, perché questi batteri, in particolare questi virus influenzali, simili influenzali, sopravvivono alcuni minuti nell'ambiente e noi toccando oggetti contaminati è da lì che arriviamo ad avere la malattia. Anna ci scrive, i batteri quindi si possono passare attraverso una stretta di mano, professor Pregliasco? Sì, assolutamente sì, le mani sono la via principale, situazioni a rischio, per esempio l'happy hour con tutte quelle prelibatezze, magari poco, diciamo anche non corrette dal punto di vista nutrizionale, ma soprattutto igienico, sono un rischio notevole, soprattutto proprio per il passaggio di più persone. Perché tutti pescano patatine, olive con le mani, quindi professore, questo suo accenno all'happy hour, a tutte queste prelibatezze che si pescano direttamente con le mani, ha sotto sotto un invito a evitarle? Un'attenzione nell'aspetto procedurale, che dovrebbe essere un'indicazione tecnica degli albergatori, dei ristoratori, su modalità che riducano questa contaminazione, anche solo lasciare aperti libero il prodotto è un rischio di per sé, peggio ancora non avere un sistema appunto che utilizzi forchette, coltelli o altri strumenti utili, e poi soprattutto un'igiene della persona, perché ribadisco l'aspetto del lavaggio delle mani è fondamentale. Grazie professor Pregliasco, ci sentiremo presto, buona giornata. A voi, a tutti. Quando lo sguardo perde freschezza, parliamo di occhiaie e borse sotto gli occhi, una compagnia di cui si farebbe volentieri a meno. Ma perché vengono e che cosa si può fare? Ne parliamo oggi col professor Antonino Di Pietro, direttore del servizio di dermatologia dell'ospedale di Inzago. Buongiorno, professor Di Pietro. Buongiorno. Oggi un compito difficile. Sì, perché è un qualche cosa che abbiamo tutti davanti agli occhi, di chi abbiamo di fronte. Ce li abbiamo di fronte. Oppure intorno quando tocca a noi. Senta professore, basta qualche ora di sonno in meno ed ecco che proprio gli occhi parlano, si cerchiano, compaiono le occhiaie, ma a volte si affezionano e restano. Professore, a volte il problema è transitorio e a volte diventa cronico. Sì, è vero, anche perché è una zona estremamente delicata, dove ci sono moltissimi vasi sanguigni, dove c'è una certa quantità anche di grasso importante per mantenere l'occhio sempre la sua posizione ed evitare che vada a sbattere contro le ossa dell'orbita, e quindi queste strutture sono estremamente delicate e sono alla base di poi quelle antiestetiche o borse e occhiaie che vediamo. E a proposito di borse, anche loro sono abbastanza bruttine da vedere, appesantiscono lo sguardo e tra l'altro sono più difficili da mascherare rispetto alle occhiaie. Sì, le borse si evidenziano, sono differenti rispetto alle occhiaie, e facciamo un po' il punto della situazione, perché le occhiaie sono una zona un po' più scura che si forma intorno agli occhi, una sorta di mascherina, soprattutto la parte inferiore, la palpebra inferiore. Le borse invece sono un qualche cosa che aumenta e che per forza di gravità tende a scendere verso il basso, formando appunto quei sacchettini che ci sono soprattutto nella palpebra inferiore. Professore, diamo allora per ciascuno di questi problemi due consigli di prevenzione, se di prevenzione si può parlare, e poi passerei ai rimedi. Certo, allora per quanto riguarda le borse, questi sacchetti che si creano sotto l'occhio, questi sono legati al tessuto adiposo, al grasso, che col passare degli anni tende a perdere elasticità. Ciò è dovuto al fatto che durante la notte una grande quantità di acqua ristagna in questo grasso si inzuppa di acqua, al mattino ci svegliamo con gli occhi gonfi e a lungo andare questo grasso perde di elasticità, diventa fibroso e crea quindi la borsa. La prima cosa, la prevenzione quindi, è di dormire con la testa un po' più alta rispetto alle gambe quando cominciamo a svegliarci con gli occhi gonfi. Sì. Questo, è un primo segnale d'allarme. È il primo segnale d'allarme, perché vuol dire che i vasi capillari stanno diventando più deboli, trasudano siero durante la notte, soprattutto se la testa è molto bassa, e al mattino ci si sveglia poi con gli occhi gonfi. Questo gonfiore cronico, continuo, giorno dopo giorno, porterà alla formazione delle borse. Mentre per le occhiaie, professore? Le occhiaie invece sono legate ad un indebolimento dei vasi sanguigni più superficiali, quindi non quelli profondi dove c'è il grasso dell'orbita, ma i vasi capillari della pelle, quelli più in superficie. È come se la pelle fosse più sottile? Certo, perché i vasi sanguigni si gonfiano, possono rompersi quelli più sottili, e in seguito a queste rotture croniche di vasi minuscoli, piccoli vasi capillari, si raccoglie nella pelle l'emosiderina. L'emosiderina contiene ferro e quindi il ferro macchia. E quindi questa macchia è causata soprattutto da una sofferenza del microcircolo. Allora, in questo caso i rimedi possono essere di varia natura, come tra poco vedremo. Allora, andiamo ai rimedi. Per chi ha già borse o occhiaie e ne vorrebbe fare volentieri a meno, o almeno mascherarlo un po', ridurle. Sì, allora il rimedio è, se riusciamo ad evitare di dormire con la testa troppo bassa e ci svegliamo ugualmente con un po' di gonfiore, bisogna cercare di eliminare questo gonfiore, questo edema, il prima possibile. Va molto bene comprimere la parte con un fazzoletto imbevuto ad esempio di camomilla che contiene bisabololo. Il bisabololo è un ottimo astringente dei vasi sanguigni e una leggera compressione al mattino elimina più velocemente il ristagno di questi liquidi che, come abbiamo visto, è deleterio. Ci sono anche studi in corso con l'utilizzo di varie sostanze, ad esempio la fosfatidilcolina, che può essere iniettata direttamente in questo grasso fibroso e eliminarlo in gran parte. Sono ancora degli studi che devono essere avvalorati, soprattutto per le conseguenze che in teoria potrebbero dare, ma che finora non ne hanno dati, e tra qualche anno quindi questo potrebbe essere un rimedio alternativo alla blefaroplastica, cioè alla chirurgia. Quindi correggere il difetto senza ricorrere al bisturi. Sì. Mentre per le occhiaie, oltre a utilizzare il correttore, cosa si può fare? Per le occhiaie invece bisogna migliorare il più possibile il microcircolo, i vasi sanguigni. Allora, oltre ad una dieta ricca di flavonoidi, e quindi tanti frutti di bosco, il pomodoro mirtillo o il mirtil pomodoro, che è questo pomodoro ricco di isoflavoni, come sono ricchi anche i mirtilli. Gli isoflavoni sono utilissimi per migliorare la microcircolazione, e allora ben vengano degli integratori ricchi di flavonoidi o anche creme ricche di flavonoidi locali. una notizia nuovissima è che c'è in corso una sperimentazione che prevede delle microiniezioni di acido ialuronico in questi primi strati, perché si è scoperto che l'acido ialuronico riesce in maniera molto buona a migliorare il microcircolo. Allora, grazie professor Di Pietro per i consigli, per le buone notizie. Intanto noi proveremo a mettere in pratica i suoi consigli e speriamo di attenuare queste borse e occhiaie che rendono lo sguardo così affaticato e poco fresco. Professore. Allora, buona giornata. Anche a lei. A tutti. Buona giornata. Grazie a lei. E per oggi è tutto. Un saluto e buon pomeriggio da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.